655. Ribes all'inglese. Ribes grammi 300, zucchero grammi 120, acqua decilitri 2. Nettate il ribes dai gambi, mettetelo al fuoco con la detta acqua e quando avrà alzato il bollore versate lo zucchero. 2 minuti di bollitura bastano, dovendo il ribes restare intero. Versatelo in una compostiera e servitelo ghiaccio come frutta cotta. I semi, se non si vogliono inghiottire, si succhiano e si sputano. Nella stessa guisa si possono condizionare le ciliegie marasche senza levare il nocciolo e facendole bollire con un pezzetto di cannella.